Ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Tra le carte del tempo della peste che si conservano nell'archivio nominato di sopra c'è una lettera, senza alcun altro documento relativo, in cui il gran cancelliere informa sul serio e con gran premura il governatore d'aver ricevuto un avviso che in una casa di campagna dei fratelli Girolamo e Giulio Monti, gentiluomini milanesi, si componeva veleno in tanta quantità che 40 uomini erano occupati in este esercizio con l'assistenza di 4 cavalieri bresciani, i quali facevano venir materiali dal veneziano per la fabbrica del veneno. Soggiunge che lui aveva preso in gran segreto i concerti necessari per mandar là il podestà di Milano e l'auditore della sanità con 30 soldati di cavalleria, che purtroppo uno dei fratelli era stato avvertito a tempo per poter trafugare gli indizi del delitto e probabilmente dall'auditor medesimo suo amico, e che questo trovava delle scuse per non partire, ma che nonostante il podestà co soldati era andato a riconoscer la casa e a versi a Iara algunos vestigios e prendere informazioni e arrestar tutti quelli che fossero incolpati. La cosa dove finire in nulla, giacché gli scritti del tempo che parlano dei sospetti che c'erano su quei gentiluomini non citano alcun fatto, ma purtroppo in un'altra occasione si credé d'aver trovato. I processi che ne vennero in conseguenza non erano certamente i primi d'un tal genere e non si può neppur considerarli come una rarità nella storia della giurisprudenza, che per tacere dell'antichità e accennare solo qualcosa dei tempi più vicini a quello di cui trattiamo, in Palermo del 1526, in Ginevra del 1530, poi del 1545, poi ancora del 1574, in Casal Monferrato del 1536, in Padova del 1555, in Torino del 1599 e di nuovo in quel medesimo anno 1630. Furono processati e condannati a supplizi per lo più atrocissimi, dove qualcheduno, dove molti infelici, come rei d'aver propagata la peste con polveri o con unguenti o con malie o con tutto ciò insieme. Ma l'affare delle cosiddette unzioni di Milano, come fu il più celebre, così è forse anche il più osservabile, o almeno c'è più campo di farci sopra osservazione per esserne rimasti documenti più circostanziati e più autentici. E quantunque uno scrittore lodato poco sopra se ne sia occupato, pure essendosi lui proposto non tanto di farne propriamente la storia quanto di cavarne sussidio di ragioni per un assunto di maggiore o certo di più immediata importanza, c'è parso che la storia potesse essere materia d'un nuovo lavoro. Ma non è cosa da uscirne con poche parole e non è qui il luogo di trattarla con l'estensione che merita. E oltre di ciò, dopo essersi fermato su questi casi, il lettore non si curerebbe più certamente di conoscere ciò che rimane del nostro racconto. Serbando però a un altro scritto la storia e l'esame di quelli, torneremo finalmente ai nostri personaggi per non lasciarli più fino alla fine. Una notte, verso la fine d'agosto, proprio nel colmo della peste, tornava Don Rodrigo a casa sua, in Milano, accompagnato dal fedel Criso, l'uno dei 3 o 4 che di tutta la famiglia gli erano rimasti vivi. Tornava da un ridotto d'amici soliti a straviziare insieme per passare la malinconia di quel tempo, e ogni volta ce n'erano dei nuovi e ne mancavano dei vecchi. Quel giorno Don Rodrigo era stato uno dei più allegri, e tra le altre cose aveva fatto ridere tanto alla compagnia con una specie d'elogio funebre del conte Attilio portato via dalla peste 2 giorni prima. Camminando però sentiva un malessere, un abbattimento, una fiacchezza di gambe, una gravezza di respiro, un'arsione interna che avrebbe voluto attribuire solamente al vino, alla veglia, alla stagione. Non aprì bocca per tutta la strada e la prima parola arrivati a casa fu d'ordinare al Griso che gli facesse lume per andare in camera. Quando ci furono, il Griso osservò il viso del padrone, stravolta, acceso, con gli occhi in fuori e lustri lustri,